voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. 150.000 per eventuale trasporto. Trasporto di che cosa? Trasporto funebre, non so, faccio il caso che le venga un colpo, una trombosi, un infarto. Ma chi la trasporta? Ma tieni i soldi anche lì? No, mi sto toccando per scaramanzia. Profumo di Eclettica. Seconda parte di Eclettica di quest'oggi completamente dedicata agli Stati Uniti in questa sua apertura. A partire da Forget Cassettes, una nuova formazione che arriva dalla città di Nashville, per i dettagli come al solito in playlist. Per proseguire poi con lo spazio, ce n'è uno, tipicamente a settimana, di profumo di eclettico, ovvero sia di ripescaggio dalle vecchie playlist dal 94 ad oggi, per andare a vedere quali sono stati i tormentoni negli anni di eclettica. Quest'oggi non siamo andati così indietro come è capitato anche di recente, ci siamo fermati all'anno 2000, l'anno in cui la K Records pubblicò il disco a nome Mira dal titolo You Think It's Like This But Really It's Like This, al cui interno era contenuto un pezzo, Sweepstakes Prize, che tanto piacque sia a me ma soprattutto a chi ascoltava eclettica in quel periodo, e quindi quest'oggi è ritornato a tenerci compagnia. Una volta, secondo Sir George H. Darwin, la Luna era molto vicina alla Terra. Furono le maree che a poco la spinsero lontano. Le maree che lei, Luna, provoca nelle acque terrestri e in cui la Terra perde lentamente energia. «Lo so bene!» esclamò il vecchio QFWFQ. «Voi non ve ne potete ricordare, ma io sì. L'avevamo sempre addosso, la Luna smisurata. Quando era al plenilunio, notti chiare come di giorno, ma d'una luce color burro, pareva che ci schiacciasse. quando era luna nuova, rotolava per il cielo come un nero ombrello portato dal vento, e a luna crescente veniva avanti a corna così basse che pareva lì lì per infilzare la cresta di un promontorio e restarci ancorata. Questo era l'incipit delle Cosmicomiche di Italo Calvino. Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac, posto per commensali che non ci sono, tac, tovaglia metro, tac, tac, Tac, tac. Piatto Fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica. Tac. Vino cartonato. Tac. Spaghetti pronto uso, contorno sul gelato. Tac. Tonno e grissini per tagliarlo. Tac, tac. Oh, questa sì che vita. Tac. Amerigo Ormea uscì di casa alle 5:30 del mattino. La giornata si annunciava piovosa. Per raggiungere il seggio elettorale dove era scrutatore, Amerigo seguiva un percorso di vie strette e arcuate, ricoperte ancora di vecchi selciati lungo muri di case povere, certo fittamente abitate, ma prive, in quell'alba domenicale, di qualsiasi segno di vita. Amerigo, non pratico del quartiere, decifrava i nomi delle vie sulle piastre annerite, nomi forse di dimenticati benefattori, inclinando di lato l'ombrello e alzando il viso allo sgrondare della pioggia. Questo era l'incipit della giornata di uno scrutatore, di Italo Calvino. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 29, volume numero 3. Indice, Etoy's Orchestra, Bar, Battles, Black Eyed Dog, Muzak, So Long Cock's Name, Forget Cassettes, Mira, Fuck Vegas, 65 Days of Static, Ghost, il film, il ragazzo di campagna, gli incipit, il cavaliere inesistente, le città invisibili, le cosmicomiche, la giornata d'uno scrutatore, tutti e quattro, di Italo Calvino.